M'han detto che domani Nina vi fate sposa, ed io vi canto ancora la serenata. La nei deserti piani, la nella valle ombrosa, oh quante volte a voi l'ho ricantata. Oh quante volte a voi l'ho ricantata. Foglia di rosa, o fiore d'amaranto, se ti fai sposa, io ti sto sempre accanto. Dato foglia di me.